a come lei a fare i bambastaggettini. Blu grembiulo da comprare, blu grembiulo da comprare, blu grembiulo da comprare ai miei bambini. Ai miei bambini, blu grembiulo da comprare ai miei bambini. Ma forse non basta ancora, ma forse non basta ancora, devo comprare pure le bavagliini. Bavaglini, devo comprare pure lì bavaglini, per le mani legate, bavagli sulla bocca, per non rischiare di prendere 5 in condotta. 5 in condotta, per non rischiare di prendere 5 in condotta, ma non è finita ancora, ma non è finita ancora, perché torneranno a avere una maestra sola. Maestra sola, torneranno a avere una maestra sola, e magari gli del latte, magari gli del latte, magari gli del latte da liceni sua. Liceni sua, e magari gli del latte da liceni sua, e li porta pure a casa e li mette pure a letto a dormire tutti quanti a cantare al suo petto. Lo grembiule o da mette ai miei bambini.